4 mattino. Alla riduzione della burocrazia manca la sempre presente eliminazione dell'evasione fiscale. La colpa non è mai della strada, la colpa è dell'indisciplina delle persone che non rispettano le regole. Sicuramente c'è un tema di questo tipo, ce lo dice anche un ascoltatore che fa il camionista, dice un problema, ci scrive un problema di cultura. Ora, fatico a pensare che Alex Zanardi non abbia una cultura della sicurezza stradale, devo essere sincero, per il suo presente e per il suo passato. Ah, sulla lotta all'evasione fiscale ha ragione l'ascoltatore, Allora, facciamo la lista di quello che sentiamo da 30 anni e che speriamo di veder realizzato quanto prima. Allora, snellimento della burocrazia, lotta all'evasione fiscale. Qualcosa si è fatto, però, a dir la verità, su questo fronte. Riforma fiscale. La riforma della giustizia, Processi più corti. Investire nell'istruzione e nella formazione. Però no, non, qualcuno mi ha detto sei un disfattista. No, non sono un disfattista, è che vorrei vederla nella sostanza questa cosa, io vorrei vederla nella sostanza. Momento populista, 3 miliardi in meno per Alitalia e 3 miliardi in più per, che ne so, per la scuola e l'istruzione, per esempio. La butto là. Veniamo nella seconda parte di 24 mattino, lo sapete, sono le 7:22 minuti e 36 secondi. Come avete sentito, sono stati ripristinati gli WhatsApp audio e questo è un bene, mi fa piacere perché posso sentire le vostre voci. Al microfono sempre Simone Spezia ed è la parte dedicata alla rassegna stampa in questo martedì 23 giugno. I titoli sono molto concentrati sull'IVA, su questa ipotesi di taglio dell'IVA lanciata da Conte, sulla quale il Presidente del Consiglio ha arretrato. Conte frena sull'IVA, è il titolo del Corriere della Sera. IVA, tutti contro Conte. Giù le tasse sul lavoro, poi l'IVA è il titolo della stampa che intervista su questo Maurizio Landini, ci arriveremo. Taglio dell'IVA, ecco chi ci guadagna, il quotidiano nazionale. Il Messaggero ci dice che invece il Tesoro apre il cantiere IRPEF. Il taglio dell'IVA, illusione, il titolo di Libero, ma il migliore è il Manifesto, le volpi e l'IVA. Non male. Sui magistrati titola il Fatto Quotidiano, CSM torna in ballo la Procura di Roma con i grandi esclusi Creazzo e Viola che ricorrono al TAR contro la nomina di Prestipino. Sta diventando, ragazzi, questa vicenda della magistratura un caos vero. E la verità, così i magistrati dettano le leggi. Intervista a Paolo Tancredi, ex deputato NCD, racconta l'iter di un emendamento sulle carriere dei PM voluto dal CSM, infilato in finanziaria. Avvenire ci porta a Ventimiglia per non dimenticarci che ci sono cose che continuano a succedere. Al di là di Covid e al di là ovviamente delle questioni economiche, il titolo è La frontiera calda, un reportage al confine. Riprendono gli ingressi e i respingimenti di migranti. Anche su questo vi voglio leggere un passaggio tra poco. Il Sole 24 Ore apre invece con un'intervista al capo della vigilanza della Banca Centrale Europea. Intervistato dal direttore Fabio Tamburini, Andrea Enria dice servono aggregazioni bancarie. Oh, e infine il Giornale che sceglie invece di aprire proprio su Alitalia. Alitalia isola Milano e vende voli falsi. Linate chiusa fino all'autunno e biglietti per gli aerei cancellati. Occhio, che anche a questo ci arriveremo. Iniziamo con qualcosa di un po' diverso. Tra un attimo arriviamo ad Alitalia. e a tutta questa vicenda c'è tutta una questione che ha a che fare con i voucher invece dei rimborsi, sul un tema sul quale l'ENAC, contro il quale l'ENAC si è scagliata ieri. È tutto un tema di voli venduti ma di fatto inesistenti. Troviamo tracce del tema del trasporto aereo un po' su tutti i quotidiani. E però iniziamo dal Tribunale di Como e siamo a pagina 8 del giornale, dove c'è una vicenda che si intreccia con la questione di Olindo e Rosa Bazzi, condannati per essere gli esecutori della strage di Erba, sono stati condannati all'ergastolo, in un processo che Felice Manti definisce con troppe ombre e pochissime luci. Oh, qua, come sapete, è aperta una controversia da quando la trasmissione Le Iene ha tirato fuori, anche sollecitata dai legali di Olindo e Rosa, insomma, tutta una serie di vicende che farebbero sì e che escluderebbero in parte o potrebbero escludere in parte le responsabilità di Olindo e Rosa, in realtà poi ricostruite in maniera abbastanza puntigliosa dai magistrati con tutta una serie di intercettazioni e via dicendo. E però c'è un caso che riguarda questo tribunale di Como, che viene raccontato da Felice Manti, che, se confermato nei documenti del Ministero della Giustizia, fa veramente spavento. Come vedremo nella puntata delle Iene in onda stasera, quell'incidente è solo la punta dell'iceberg di uno scandalo clamoroso. Nella relazione fatta sulle condizioni dell'ufficio, relazione fatta dagli ispettori del Ministero della Giustizia e che il giornale ha potuto solo consultare, si raccontano particolari agghiaccianti, confermati anche dai verbali degli ispettori arrivati nel marzo del 2019. Reperti privi di riferimenti ai processi. Avete capito? Reperti privi di riferimenti ai processi. Cioè c'è un reperto ma non si sa a quale processo sia riferito. Una pistola appoggiata su una scrivania e poi sparita. Armi, fucili e proiettili senza riferimenti. Non si trova neppure una parte della droga sequestrata. Un suc, tanto che per stessa richiesta degli 007 di via Arenula, che sono gli ispettori del Ministero della Giustizia, vengono chiamati così nel linguaggio giornalistico, non è che sono gli 007, sono gli ispettori del Ministero della Giustizia, la stessa ispezione è stata sospesa in attesa della bonifica dei registri. Ma non è la prima volta che gli ispettori fanno capolino nel Tribunale Comasco. Anche nel 2017, da un controllo ordinario, si erano accorti che mancava perfino un elenco generale dei reperti. E che c'erano lì armi addirittura dal 1974, perché la consuetudine evidentemente era quella di non distruggere le prove. Questo ci porterebbe dritti a tutta la vicenda della magistratura, e anzi, facciamo così, che ci porta dritti a tutta la vicenda della magistratura, che continuiamo a trovare in ampie questioni sui giornali. Breve ricostruzione e per sommi capi. Sono emerse, pubblicate dal quotidiano La Verità nei giorni scorsi, ormai lo sapete, le chat di Luca Palamara, ex presidente dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, il Sindacato dei Magistrati. E da queste chat cosa emerge? Tutto un sistema di potere e di connessioni che lega la politica e la magistratura e che di fatto un gioco tra correnti per ottenere posti ai vertici degli uffici giudiziari. Qua mi sento di segnalarvi due cose. La prima è questa: l'intervista, il colloquio, insomma non sappiamo esattamente, di Tommaso Labate con Cosimo Maria Ferri. Chi è Cosimo Maria Ferri? È l'ex Cosimo Ferri, ex attualmente deputato di Italia Viva, eletto nel 2018 con il PD, sottosegretario alla giustizia nei governi Letta, Renzi e Gentiloni, lunga carriera da magistrato, è considerato in tutti questi racconti un po' l'ombra dietro tutte le vicende di Palamara, insomma così viene raccontato, poi sapete come sono queste cose, sono i mille retroscena. Qua abbiamo le parole di Ferri, il quale dice su Palamara: Luca sa molto più di quanto ha detto. Alla NM dovevano farlo parlare. E anche qua si apre un mondo, perché al momento si sta lavorando su 20 magistrati, ma come ben capite questo scandalo potrebbe allargarsi ulteriormente. La verità è che adesso non c'è Troia che tenga, dice Ferri. Il pallino è in mano a lui. Resta da vedere se e cosa Palamara avrà voglia di ricostruire, di dire, di raccontare. Francesco Cossiga, che non l'aveva in grande simpatia, lo chiamava Tonno Palamara. Se fosse vivo oggi, il presidente emerito magari avrebbe iniziato a stimarlo e a spingerlo ad andare avanti con le sue picconate. Sa, le sue rivelazioni magari aiuterebbero sia la magistratura che la politica a procedere verso una vera separazione dei poteri. Chissà se lo farà. Certo, le cose che ha iniziato a dire, i nomi che ha iniziato a fare, non serve grandissimo fiuto per capire che non siamo neanche all'inizio. E qua a parlare è uno che le cose le sa. La verità apre con la giustizia, con quella che la verità chiama le mani pulite nella giustizia, e l'apertura è dedicata a questa intervista realizzata con un ex deputato di NCD. Si chiama Tancredi e parla apertamente di che cosa? Di un emendamento che è piombato sul suo tavolo, ossia una modifica alla finanziaria, di fatto, che apparentemente con la finanziaria non ha nulla a che fare. Oggi è manager del settore energetico. Un emendamento ad hoc che consentiva ai consiglieri del CSM di gareggiare subito per posti direttivi non appena lasciato Palazzo dei Marescialli, cioè esci dalla porta del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, e subito puoi andare a ricoprire un incarico direttivo. Questo, tramite questo emendamento piombato sulla scrivania di fatto di Tancredi, che non era il relatore dell'emendamento, però insomma è stato protagonista di questa vicenda. Quell'emendamento l'ho firmato, non lo rinnego, lo condivido ancora. Lei in un'intervista del 2018 ha detto: non l'ho preparato io, me l'hanno preparato dei giudici e dei senatori. Chi erano? No, vabbè, sono amici, si dice il peccato, non il peccatore, non l'ho detto al Corriere e non lo dico a lei. Le cose sono un po' cambiate rispetto al 2018, parliamo del merito, l'emendamento l'ho presentato io, ma a mio giudizio era inammissibile per la legge di bilancio, sebbene in quei frangenti si presentino tanti emendamenti potenzialmente inammissibili. E insomma, qua Tancredi ammette candidamente quell'emendamento che poteva favorire gente che era dentro il CSM per ricoprire incarichi direttivi all'interno degli uffici giudiziari. Ebbene, mi è stato scritto da amici, magistrati e senatori. Ci prendiamo una pausa e poi ci ritroviamo con un po' di storia, la vicenda all'Italia e la vicenda dei voli cancellati che riguarda tanti di noi. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Il taglio dell'IVA se la mangerebbero gli aumenti che sono già cominciati, mentre un taglio dell'IRPEF darebbe più potere di spesa a chi ha sempre pagato le tasse. Riflettevo riguardo la questione all'Italia. Con tutto quello che noi cittadini italiani abbiamo contribuito per tenere in vita questa azienda che fa acqua da tutte le parti, ma non ce lo siamo meritati ancora un biglietto andata e ritorno per una località italiana per ciascun abitante maggiorenne del suolo italiano? Cioè, io penso proprio di sì, Vecchia storia quella lanciata da un ascoltatore. Ogni tanto qualcuno lo ripropone e dice: ma con tutti i soldi che ci ho buttato dentro da contribuente, ma mi vuoi dare un biglietto gratis? L'importante è che questo volo arrivi dove deve arrivare dove io voglio che arrivi. Arrivi nel luogo per il quale l'ho comprato. E stando al giornale, pagina 6 con Paolo Stefanato, beh, per i milanesi non è detto che questo avvenga. Il titolo del pezzo è questo: Milano isolata, Linate chiuso e Alitalia vende biglietti falsi. Alitalia continua a vendere i biglietti da Milano Linate dalla data del 1 agosto, quando non si conosce ancora il giorno di riapertura dell'aeroporto. Ma le voci più insistenti negli ambienti politici e in quelli aeronautici dicono che prima di ottobre non riaprirà. Una presa in giro? Linate è per il 70% mercato di Alitalia e le pressioni per farlo riaprire sono fortissime, anche se il numero attuale dei passeggeri è talmente esiguo da non giustificarlo sul piano economico per il gestore. Perché il gestore è SEA, è la società che gestisce gli aeroporti milanesi, è in maggioranza del comune e il comune non vuole costringere questa società ad operare in perdita. Dunque, cosa succede? Ci sono tutta una serie di biglietti che sono venduti per Linate e che invece potrebbero atterrare su Malpensa almeno fino ad ottobre. Questo ci porta ad un altro fronte, quello dell'estate dei voli fantasma, come la chiama il Corriere della Sera, pagina 27, con Leonard Berberi, il quale ci fa sapere che ci sono tutta una serie di biglietti che forse noi stessi stiamo acquistando in queste ore, dei biglietti aerei di voli che forse non partiranno mai. I biglietti aerei in vendita fanno pensare a voli normali e frequenti, diretti in località classiche, visto il periodo, a prezzi convenienti e orari interessanti. C'è solo un piccolo particolare: molti sono collegamenti che non decolleranno, non quel giorno e con ogni probabilità anche nelle settimane successive. La compagnia aerea lo sa, il passeggero no. L'estate 2020 passerà la storia come la stagione dei voli fantasma in Europa e negli Stati Uniti. Migliaia di posti inesistenti venduti a bordo di velivoli ancora fuori uso che portano soldi alle casse dissanguate dei vettori e voucher ai clienti. E qua si innesta anche l'ENAC che chiede, insomma, di smetterla con i voucher e di invece procedere ai rimborsi. Qual è il punto? Dietro le quinte le spiegazioni sono: una è tecnica, i collegamenti li abbiamo messi in vendita diversi mesi fa e non sono stati mai tolti, anche perché ci aiutano a capire dov'è che tira il mercato post-Covid, confidano al Corriere due dirigenti di altrettante low cost europee. Insomma, sanno che non decollano, ma li tengono. L'altra motivazione operativa: i flussi sono ancora ridotti, gli aerei non si riempiono e così conviene cancellare il volo invece che farlo decollare. Volete un buon esempio di quello che succede? Un analista di una società specializzata, OAG, John Grant, dice: guardando all'Italia ci sono 2.500 voli previsti questa settimana e 4.500 la prossima. Ma è evidente che si tratta di un tasso di crescita improbabile dato il modesto incremento della domanda che stiamo registrando. E dunque si ragiona anche su questo tema dei voucher o dei rimborsi. A proposito di compagnie aeree, vale la pena spostarsi in Germania, perché tanto abbiamo raccontato del salvataggio di Alitalia. Veniamo invece al salvataggio di Lufthansa, che a questo punto è in bilico. La Germania era pronta a iniettare, se non vado errato, 9 miliardi di euro, un piano da 9 miliardi con 22.000 esuberi, ma qua... che cosa è arrivato? È arrivato il terzo incomodo tra lo Stato e Lufthansa, ossia un imprenditore a capo della Knorr Bremse AG, società leader nei sistemi di frenaggio per treni e veicoli commerciali con sede a Monaco di Baviera, che ha acquistato azioni per il 15,5%, garantendosi di fatto una minoranza di blocco che potrebbe fermare l'operazione con la quale il governo vuole salvare Lufthansa e di fatto portare al fallimento della compagnia. Potete immaginare il livello di preoccupazione dalle parti tedesche, ce lo racconta bene Mara Monti a pagina 8 del Sole 24 Ore, in un pezzo al quale si affianca quello di Isabella Bufacchi, che racconta di questo caso incredibile, di quella che molti chiamano la Parmalat tedesca. Che cos'è? È Wirecard, una società di fintech, la quale è al centro di un presunto caso di frode di dimensioni impressionanti. Considerate che questa azienda aveva sostituito nel listino principale di borsa, il DAX, aveva sostituito Commerzbank, questo per darvi la misura e la dimensione di questa azienda, tra le 30 quindi a maggiore capitalizzazione della Germania. Ebbene, si parla di conti da 1,9 miliardi che probabilmente non esistono, 2 miliardi di euro che probabilmente non esistono, il saldo dei conti correnti bancari fiduciari per 1,9 miliardi è probabile che non esista, ha fatto sapere l'azienda ieri in una nota, una voragine che potrebbe far scattare le manette per l'ex amministratore delegato e fondatore Marcus Braun e Jan Marsalek, membro del board. Questo ha fatto sapere la Reuters. Ieri l'azienda ha chiuso con un calo del 43% in borsa, ha chiuso a 14 euro a metà giugno, viaggiava oltre quota 100. Traffico. Siamo nella testa di un professionista. A sinistra, il problema dell'acquisto di un nuovo veicolo. Ma è meglio aspettare ancora. A questo punto ci pensiamo dopo l'estate. A destra. Guarda che i contributi scadevano il 30 giugno. Cosa? No! Non sempre si può tornare indietro. A giugno Volkswagen Veicoli Commerciali offre 5 milioni di euro di contributi sui veicoli in pronta consegna. Se te li fai sfuggire, perdi fino a 6.000 euro di vantaggi su Transporter e il service plan incluso se attivi il leasing. Info su volkswagenveicolicommerciali.it. A proposito di Germania, vi voglio segnalare molto rapidamente sulla vicenda dei focolai nei macelli tedeschi nel Nordreno-Vestfalia, l'ottimo pezzo di Tonia Mastrobuoni su Repubblica, pagina 16, nel quale si parla di questi 1300 casi nello stabilimento del re della carne Tönnies, il più grande mattatoio d'Europa, il tutto dovuto in gran parte alle condizioni terrificanti nelle quali lavorano le persone che sono dentro questo stabilimento, in gran parte stranieri, pochissimi tedeschi, e appunto 1300 casi di coronavirus registrati, il rischio di chiusura addirittura per il Land che diventi zona rossa, il Land del Nordreno-Vestfalia. E a proposito di qua in questo caso di un mattatoio di diverso tipo e sempre doloroso, siamo a pagina 15 del Corriere della Sera, la storia del Festival di Yulin, il mattatoio pubblico dei cani che si svolge in Cina, che nonostante tutto quello che è successo, il coronavirus, i dubbi che sono stati sollevati su quello che succede, prosegue. Il Festival di Yulin, racconta Guido Santevecchi, mattatoio pubblico di cani non si è fermato neanche dopo lo sdegno e la paura suscitata dal wet market di Wuhan, da dove è partito il coronavirus. E così ogni anno, a partire dal solstizio d'estate, questa sagra dell'orrore richiama migliaia di persone, razziatori, venditori, macellai, cuochi, ristoratori, appassionati che amano nutrirsi di carne di bestiole che fino a qualche settimana fa giocavano con i loro padroni. E ogni anno proteste internazionali, promesse del governo cinese che però non servono a nulla. Il fronte economico, invece, qua andiamo a chiudere la rassegna stampa, avvicinandoci al GR, a tutte le notizie che hanno a che fare con il governo, con la questione del taglio dell'IVA. con un'intervista che potrebbe segnare, se vogliamo anche dal punto di vista politico, un punto di svolta interessante, e sono le parole di Maurizio Landini, del leader della CGIL, in questa intervista con Marco Zatterin, appunto sulla Stampa, pagina 3, il quale dice Landini che sì, il messaggio degli Stati Generali è importante perché ribadisce che c'è bisogno di tutti per progettare un futuro, e però dice anche il governo parla troppo e ora deve agire. E anche sul tema dell'IVA dice la vera urgenza è detassare il lavoro per incentivare i consumi, si devono defiscalizzare gli aumenti salariali e ridurre il fisco sul lavoro. Landini che chiede piena consultazione, non è che così si va alle calende greche, chiede Zatterin. L'accordo sulla sicurezza lo abbiamo fatto in 18 ore. La mia domanda banale è: davvero pensate di progettare un nuovo paese, un nuovo modello di sviluppo senza investire e coinvolgere il lavoro? Chiede Landini, chiede retoricamente Landini. E però il segnale dato al governo pare interessante in termini anche di forza e di parole utilizzate. Sul tema dell'IVA trovate molti elementi, ne trovate naturalmente sul Sole 24 Ore come tema di dibattito, ne trovate sul quotidiano La Repubblica, pagina 3, nel quale Alberto D'Argenio ci racconta tutti i dubbi dei partner europei, a partire da un alto diplomatico straniero che dice: nel pieno dei negoziati sul Recovery Fund per dare all'Italia 172 miliardi, parlare di un taglio dell'IVA non aiuta. Piuttosto Roma dovrebbe presentare un piano di riforme per rilanciare l'economia. E poi qua abbiamo anche il Messaggero a pagina 5 con Andrea Bassi, che il quale ci fa sapere che si riapre il cantiere del fisco, aliquote giù al ceto medio, questa è l'ipotesi sulla quale starebbe lavorando l'esecutivo. Il Sole 24 Ore, come si diceva, apre con un'intervista ampia, sono due pagine, al capo della vigilanza della Banca Centrale Europea, Enria, intervistato dal direttore Fabio Tamburini, le pagine 2 e 3, nelle quali Enria tocca molti temi, dal fondo di garanzia e fondo unico per completare l'unione bancaria, del fatto che servono aggregazioni bancarie e che il sistema bancario sta agendo da ammortizzatore. Dal Sole 24 Ore, che oggi insomma, è al suo appuntamento con Telefisco a partire dalle 9, la diretta online, il convegno L'Esperto Risponde, ci segnala anche che era arrivato poco fa un WhatsApp di un ascoltatore con qualche preoccupazione per la scadenza del 30 giugno per il pagamento delle tasse. Come si diceva, appunto, un comunicato del Ministero dell'Economia fa sapere a una settimana dalla scadenza e senza ancora il provvedimento, senza ancora il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che il pagamento, i versamenti IRPEF e IRES saranno rimandati, perché manca ancora il provvedimento, al 20 di luglio. GR24, ci ritroviamo tra poco con Maria Latella. Avremo tra l'altro ospite, cari ascoltatori che siete in coda nei dintorni di Genova, l'amministratore delegato di Autostrade. A tra poco.